24 mattino. Non si lamenti Simone di rimanere in Lombardia, perché qui abbiamo dei bellissimi laghi, bellissime montagne, bellissime città. Nessuno, dico nessuno, ha parlato del fatto che se ci vogliono ancora dei volontari civici, quindi dei moralizzatori, vuol dire che noi, gli italiani, sono degli incivili. Questa è una cosa che è passata senza nulla ferire, cioè tranquillamente. Boh, vabbè, siamo abituati a lamentarci di tutto, no? Però non lo vedo una cosa cattiva e fatta male, perché le aziende ed i privati chiedono un aiuto allo Stato per quanto riguarda il controllo e la gestione. Per gli stessi privati e le stesse aziende viene difficile. 349-238-6666 per le vostre voci, se volete. No, ma non mi lamento che siamo in Lombardia, figuriamoci. Io sono ormai, ma sono quasi 20 anni che vivo a Milano, una città che mi ha accolto meravigliosamente. Però, due passi in spiaggia. A questo punto me li farei volentieri. Possibilmente senza scene tipo quella di Rimini, con i quad della polizia che mi inseguono perché sono sdraiato a prendere il sole. Comunque è vero, vero, la Lombardia è piena di luoghi meravigliosi. Forse ha ragione l'ascoltatore. Si pensa di fondo che abbiamo bisogno, che noi italiani abbiamo bisogno di un moralizzatore. Ve lo ricordate Filippo Roma alle Iene, che faceva il moralizzatore, che sta là e ti dice: no, la coda così non è giusta, si metta in fila dietro quest'altra persona, entri scaglionato. Va bene. Vedremo cosa ne sarà di questa vicenda degli assistenti civici, care ascoltatrici e cari ascoltatori. È la seconda parte di 24 mattino, è mercoledì 27 maggio, sono le 7:20 ed è la parte dedicata alla rassegna stampa, con i giornali che si dividono un po' sulle aperture oggi. Alcuni sono dedicati alle questioni di Covid e un paio di giornali si concentrano sul tema dell'infanzia e dei bambini. Prima i ragazzi è il titolo di Avvenire. Ecco le linee guida per l'accoglienza educativa in sicurezza negli oratori. Piccoli gruppi in spazi aperti, responsabilità condivisa con gli enti locali. Mentre invece La Stampa ci fa sapere, con uno studio di Confcommercio e Censis, che un asilo su tre potrebbe non riaprire. Sempre più difficile la ripartenza, mentre 6 famiglie su 10 temono di perdere il lavoro. Altri si concentrano su i territori, come il Corriere della Sera, battaglia sulla Lombardia, i timori dei governatori di Sardegna e Campania sul contagio da turismo, Sala che dice il governo ci avvisi se chiude, lo faccia presto, mentre gli scienziati sono cauti. Riaperture, serve l'ok del Sud, ci informa invece il Messaggero. Perché si vuole evitare l'altolà dei governatori del Mezzogiorno a riapertura, appunto, per esempio, della Lombardia. Il Quotidiano Nazionale ci dice che i contagi sono al minimo e si va verso la fase 3. Un altro gruppo di quotidiani invece si occupa della vicenda di Salvini in apertura. Salvano Salvini per salvare la faccia, scrive il giornale. Lo scandalo intercettazioni fa vergognare perfino la politica. Collega dunque i due elementi, la questione di Palamare, dell'inchiesta e il voto di ieri in giunta su Salvini. Per il Fatto Quotidiano, Renzi è il palo della banda Salvini. Salva il capo della Lega su Open Arms con una 5 stelle ribelle e un ex. La Verità, anche qua, mette insieme i due elementi, lo scandalo giustizia e la questione Salvini, lo scoop della Verità stoppa il processo burletta a Salvini. Libero apre con un'intervista allo stesso Salvini, criminale è il governo. Matteo al Libero, i profughi muoiono oggi, non quando c'ero io, giustizia da rifondare. Il Manifesto, usa, è un po' sulla linea del Fatto Quotidiano, muto soccorso è il titolo ed è una foto di Renzi e Salvini vicini. Una scialuppa per Salvini è il titolo della Repubblica, che gioca sul fatto che si parla naturalmente del, appunto, delle questioni che hanno a che fare con l'immigrazione. Due giornali aprono con l'economia, il Sole 24 Ore naturalmente, che ci parla di borse con il recupero del crollo da lockdown in apertura e poi del recovery fund a centropagina. Dai paesi dell'est gli ostacoli più difficili, ci dice il Sole 24 Ore. A centropagina invece ha una, come fotonotizia, il Giappone. Il Giappone che va verso la fine dell'emergenza e vengono raddoppiati gli aiuti all'economia. E il Foglio, che ha una lunga, lunga intervista al ministro dell'economia Gualtieri, così renderò l'Italia attraente, lo Stato azionista? No, non è uno scandalo. Iniziamo, come sempre, però da qualcosa di laterale, ma nemmeno troppo oggi, perché oggi voglio aprire un capitolo, come fanno un po' di quotidiani, come vi dicevo, sul tema dell'infanzia e dei bambini. Perché sì, si parla di asili nido e ci arriveremo tra un attimo. Sì, si parla e si torna a dibattere di questo tema dell'ultimo giorno di scuola, che è, insomma, no, è un'idea lanciata, quella di far fare ai ragazzi, ai bambini, quelli dell'ultimo anno di quinta elementare, soprattutto, ma magari anche di terza media, l'ultimo giorno di scuola, magari all'aperto. Se ne continua a discutere anche se il comitato tecnico scientifico ha detto di no. E però la prima vicenda sulla quale vi voglio portare è una vicenda particolare, che prendiamo da un giornale che non citiamo spesso, ma che ci sembrava valesse la pena raccontare. Il giornale è Il Riformista, la storia la racconta Giulio Cavalli e riguarda un bambino di 2 anni. Ed è una storia dolorosa, perché è una storia che ha a che fare con il carcere. Ha 2 anni, ma per le toghe deve stare in cella, racconta Giulio Cavalli. Rimasto solo nel nido. Non è il titolo di un romanzo o di una gustosa serie televisiva. Solo nel nido ci è rimasto Edward, che ha 2 anni e da settembre dell'anno scorso passa la giornata dentro il nido del carcere di Rebibbia. Considerato modello nazionale, eppure sempre spazio contornato di sbarre e con una libertà centellinata. Solo che il nido, dopo che sono risultati positivi al Covid-19 due medici e due infermiere che prestavano servizio nel complesso femminile del carcere di Rebibbia, è stato completamente svuotato, accedendo a misure alternative di tutti i 14 bambini che c'erano all'inizio dell'emergenza coronavirus. Tutti tranne Edward e sua madre Nasa. Lei ha 42 anni e per un cumulo di condanne deve scontare 18 anni di carcere, madre di 13 figli, autrice di una serie di furti aggravati. La sua storia però, dice Giulio Cavalli, no, è diventata una storia minore, una di quelle vicende laterali che risulta perfino scomodo raccontare in questi tempi in cui buttare via la chiave per i colpevoli è diventata la frase regina del dibattito politico e pubblico. Una frase, ricorda Giulio, una fase, ricorda Giulio Cavalli, nella quale, insomma, si scarcerano i boss e poi, insomma, una madre, per quanto in carcere per tutta una serie di delitti, resta in carcere. Balza agli occhi un dato: in questi 2 mesi i magistrati competenti, non solo di sorveglianza, hanno usato tutti gli strumenti per scarcerare i bambini del nido di Rebibbia, dimostrazione del fatto che se esiste la volontà di garantire un'infanzia dignitosa a bambini reclusi, esistono strumenti a disposizione. Bisogna avere il coraggio di usarli e di osarli, scrive Giulio Cavalli. E però la storia che racconta è questa, di un bambino di 2 anni rimasto da solo dentro il nido del carcere di Rebibbia. I bambini e le scuole, tema molto dibattuto. Ieri vi ho letto l'articolo di Antonio Polito dal Corriere della Sera, che rilanciava un po' questo dibattito che forse, permettetemi di dirlo, forse arriva un po' a giochi fatti, nel senso che ci si sarebbe potuto pensare forse un paio di settimane fa, insomma, aver l'idea un paio di settimane fa avrebbe consentito di organizzare le cose meglio, perché tra l'altro le scuole in sostanza stanno finendo. E però il dibattito è aperto, c'è con il comitato tecnico scientifico che dice di no, e però l'idea di far fare l'ultimo giorno di scuola a questi bambini, pur distanziati, pur in luoghi aperti, resta sul piatto, e la pone il vice ministro all'istruzione Anna Scanzi, che insiste, facciamolo all'aperto. Prendiamo la cronaca dalla Repubblica, da Ilaria Venturi, a pagina 11. Il comitato tecnico scientifico e la ministra Azzolina dicono è indispensabile mantenere anche in queste ore comportamenti responsabili e augurarsi che nei prossimi giorni il trend continui a migliorare. E però i genitori non si arrendono e tirano per la giacca i sindaci. A fare da apripista è stata la renziana Isabella Conti, alla guida di San Lazzaro di Savena, paesone di 32.000 abitanti alle porte di Bologna. Classi dell'ultimo anno, dalla materna alle medie, scaglionate da lunedì su un prato largo alcuni ettari, a distanza di 2 metri, segnata con colorati hula hoop. Un'idea che contagia. Belinda Gottardi, la sindaca PD di un comune poco distante, ha pensato di distanziare gli alunni chiedendo di sfalciare l'erba al parco a cerchi. Ho avuto molte richieste dei genitori, anche se per noi sindaci è difficile capire cosa poter fare, ma procediamo. Per le quinte della primaria si pensa all'incontro tra l'8 e il 15 giugno, per le terze medie il saluto è rinviato alla prima settimana di luglio, dopo l'esame che sarà a distanza. Insomma, i piccoli comuni si muovono ed è più facile. A Firenze il sindaco Dario Nardella va in scontro coi sindacati. Lui insiste nell'appello al premier Conte di permettere agli alunni di salutarsi. Capisco la preoccupazione della salute, ma vale lo stesso per chi torna nelle fabbriche o riapre un ristorante. Penso che tutti possano fare un passo in avanti, anche i presidi e gli insegnanti, reagisce la CISL. Parole che lasciano esterrefatti. Ignora che non sono i docenti a decidere quando tornare. E però, appunto, il dibattito è aperto e vedremo se porterà qualcosa. Vedremo cosa succederà, tra l'altro, con gli asili nido, perché, come racconta Maurizio Tropeano sulla Stampa, pagina 6, l'emergenza coronavirus si abbatte sulle famiglie italiane. E secondo il rapporto annuale su fiducia e consumi di Confcommercio e Censis, a causa della crisi sanitaria e del conseguente lockdown, il 42% delle famiglie ha visto ridursi l'attività lavorativa e il reddito. 6 su 10 temono di perdere il posto di lavoro. E però il titolo è sugli asili nido. Asili nido perché 3 su 10 rischiano di non riaprire più. La ripartenza rischia di essere compromessa anche dalle difficoltà del terzo settore. Un pezzo dell'economia sociale è sulla spiaggia di Dunkerque, che rischia la disfatta sotto l'impatto del coronavirus. Adesso è fondamentale salvare il maggior numero delle imprese sociali per ripartire a settembre, spiega Mario Calderini, professore di innovazione sociale al Politecnico di Milano. Cooperative e imprese sociali gestiscono tra il 60 e il 65% delle scuole d'infanzia. Se salta il 40% di quelle imprese, il 30% dei nidi italiani rischia di non aprire a settembre. E questo è un punto fondamentale. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Caro Matteo, mi sa tanto che questa volta ti è andata male, perché se avessero dato l'autorizzazione a procedere, tu saresti passato come martire e i tuoi consensi sarebbero saliti, mentre adesso sono ancora parecchio sotto le scarpe. L'avete chiesto ai liguri che non hanno uno stabilimento balneare o di un bar? Quanto piacere abbiamo di trovarvi tutti qui domenica o anche sabato o weekend? Non penso proprio che lo sappiate. Ma ieri sera Boccia l'ho visto veramente, veramente in grande difficoltà. Si vedevano le goccioline proprio di sudore scendere, copiose. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Tra l'altro tu eri ieri là, no? Di martedì con il ministro Boccia. Eri là. Ma non ero io a metterlo in difficoltà, no. Era la situazione obiettiva, onestamente. Poco merito al giornalista e molto alla situazione obiettiva, anche se qua si volta pagina rapidamente, e oggi la questione dei volontari, dei 60.000 volontari, sembra una storia di 10 anni fa, invece sì. Appena di ieri Oggi invece la giornata, non so se hai notato, è improntata all'ottimismo. Sì, cioè, sì. Oggi è il giorno del Recovery Fund, in cui si decide come e quanto verrà stanziato questo fondo europeo, soprattutto ci interessa la parte dell'Italia. C'è una lettera del Presidente del Consiglio molto ottimistica, investimenti digitali, riforma fiscale, pronti a cambiare il reato di abuso d'ufficio. La lettera è pubblicata con grande evidenza ai due giornali a cui l'ha mandata, cioè il Corriere della Sera e Il Fatto. Curiosa sì. Questa come scelta, mandata, come scelta, come scelta, però insomma ogni Presidente del Consiglio. E guarda, al quale associo se posso Paolo anche questa mega intervista di Claudio Cerasa al ministro dell'economia Gualtieri sul Foglio, anche qua insomma una certa professione di ottimismo, sì, insomma, come dovuto sembrano passati mille anni luce. Ci sono i virologi, i medici che dicono attenzione, non è ancora tutto, ci sono delle cose poco chiare. Però alcuni di loro devono essere messi sotto scorta perché li minacciano, dicono che sono uccelli del malaugurio. Anche questo fa riflettere sull'Italia. È stata la stagione dei virologi in TV, adesso il pubblico comincia a scocciarsi sì. E vuole una stagione di maggiore ottimismo e noi, demagogicamente, andiamo sì. Incontro a questo pubblico dando il titolo del Sole 24 Ore che dice da veri populisti noi io e te siamo populisti sì. Quindi assecondiamo e allora comprate e leggete il Sole 24 Ore. Il titolo di testata è Borse, recuperato il crollo da lockdown. Sembra incredibile, non le borse sono riuscite. Fitch è ancora molto prudente, vede nero sul 2020, ma da noi è già festa e non solo da noi. L'articolo è di Moria Longo, quello Borse ritorno al pre-lockdown, sì. Ma poi ce n'è uno di Maximilian Cellino, la bond mania contagia il mondo, boom di emissioni. A proposito del recovery fund, i paesi dell'est sono l'ostacolo più difficile da sì. Superare perché non ne vogliono sapere, anche questo. Però si segnala nella giornata di ieri qualche concessione anche dall'Austria, qualche cedimento anche dall'Austria, no? A testimonianza che forse qualcosa si sta incrinando e anche qua qualche segnale positivo si sembra cogliere, poi vedremo oggi ovviamente. Tutto volge positivo. Metagliati, io sono fra i prudenti, sono sì. Tra i cauti, questo modo di chiedere soldi, investimenti, certo è ovvio, bisogna fare quello, però bisognerebbe anche forse pensare a questi investimenti, a come metterli in qualcosa di più produttivo piuttosto che dare regalie di qua e di là, però insomma mi tengo per me questa opinione. La Svizzera torna a essere la cassaforte dei soldi italiani. Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi, sempre dal Sole 24 Ore. All'Italia è stato concesso, cioè non all'Italia adesso, alla FCA è stato concesso quella prestito da Banca Intesa, adesso verrà la garanzia dello Stato italiano, immagino, e come ti dicevo, persino per questo ho avuto questo lapsus, persino le compagnie aeree EasyJet e Ryanair tornano a volare, O'Leary impugna gli aiuti all'Lufthansa, ma loro tornano a volare. L'unica cosa, c'è un piccolo ritardo, lo dice un articolo sempre sulle 24 ore, pagina 19, per l'Italia non parte il 1 giugno, la nuova società non è stata ancora costituita, serve un decreto del MEF. E a proposito della nuova all'Italia, mi ha fatto molto sorridere un articolo a cui darei una menzione speciale di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, che è andato a contare tutte le volte che è stata fondata la nuova all'Italia negli ultimi 31 anni, anzi la prima volta fu nel 1989, e è andato a guardare su l'ANSA ed è accaduto 1642 volte, cioè l'annuncio che era stata fondata una nuova all'Italia. E nota Gian Antonio Stella, sempre con un prestito ponte, sì, il quale ponte certo. Non è arrivato mai dall'altra parte. No, assolutamente. Per cui non fa, è un articolo ironico e molto pietoso, non fa il conto di quanti soldi ha assorbito la nuova Alitalia. Sì. Questa volta la nuova Alitalia partirà però in ritardo perché il primo giugno non sarà pronta. Sì, non sarà pronta. Ieri abbiamo dato conto invece di un pezzo fatto di cifre, che era il pezzo di Gianni Dragoni sul Sole 24 Ore. Abbiamo dato conto ieri in rassegna stampa che calcolava più di 12 miliardi ci sono costati i salvataggi, faceva un conto complessivo di 210 euro per ogni italiano, neonati compresi, per salvare Alitalia. In tutti questi anni. Antonio Stella invece calcola solo 1600 rotte volte in cui si è festeggiato, sono state aperte bottiglie di champagne per festeggiare la nascita della nuova Italia. Sappiamo, guarda, io ho la sfera di cristallo, so già come andrà a finire questa storia della nuova Italia, come le precedenti 1629 volte. Un altro prestito ponte. Ma dovremmo fare come con l'Europa, invece di fare prestiti, dovremmo chiedere che siano soldi a fondo perduto, sì. Non ti deve chiamarli prestiti. Sì, perché non lo so. Non restituisce nessuno questi prestiti. In effetti, a proposito appunto di note di ottimismo, anche i dati che vengono pubblicati in queste ore, che sono stati pubblicati ieri e sono stati diffusi ieri, sul numero di contagi inducono ad un cauto ottimismo, posto che naturalmente, come leggiamo un po' su tutti i quotidiani, resta in bilico la Lombardia sulla riapertura del 3 giugno. Sì, soprattutto resta in bilico la Lombardia, e non dimentichiamoci che noi siamo un paese nel centro dell'Europa, anche gli altri paesi, Macron ha dato miliardi all'industria dell'auto, anche in Spagna si fanno investimenti, non è che gli altri paesi non aspettassero come noi la fine del lockdown e la possibilità di spendere. Speriamo solo, ripeto, che siano soldi ben spesi, sì. Ovviamente, che non siano soldi buttati dalla finestra per regalie, monopattini, buone vacanze, cose di cui siete a parlare. Sacrosante se fatte isolatamente, ma se mi viene il sospetto che 80 miliardi di euro vengano mandati via in questo modo, e allora temo che in autunno avremo due bruschi risvegli. Uno, quello mi auguro di no, da virus, e forse quello non ci sarà, ma uno ci sarà sicuramente, sarà un brusco risveglio da economia, da soldi buttati e che non ci sono più. Certo, il traffico, e poi veniamo a tutta la parte politica, Salvini, la magistratura e non solo. Allora, la parte politica, da cosa vogliamo iniziare, Paolo? Da questo... Salvini, anche sì. Questi fatti sono notizie, non c'è bisogno di ripetere. Ieri in commissione Salvini è stato salvato dal processo su Open Arms dall'astensione dei senatori di Italia Viva e da due transfughi del Movimento 5 sì. Stelle. C'è da dire che l'astensione di quelli di Italia Viva era inutile, perché anche se fossero stati presenti avrebbero votato contro. Comunque, sarebbe stato un 13 contro 10, sarebbe esatto, stato alla quindi, fine. E poi c'è da dire anche che è un voto che non conta niente, perché poi si voterà davvero in aula, quindi una cosa di passaggio, però un segnale politico. Stefano Folli su Repubblica nota che nel comunicato con cui giustificano il loro atto, i renziani dicono perché insomma fanno un'insinuazione sulle corresponsabilità, la correità eventuale del Presidente del Consiglio, ma Marco Travaglio nel suo editoriale produce una lettera scritta proprio in quei frangenti dal Presidente del Consiglio, in cui il Presidente del Consiglio dice: attento Salvini, qua tu stai andando per una strada che non è quella del governo. Insomma, la cosa nel merito è una cosa che si può ampiamente discutere. Certo. Non è non è una tappa decisiva. Oggi il giornale rappresenta una tappa decisiva e segnala. E ne leggono più, mi pare, Paolo, ne leggono di più appunto l'aspetto politico. Se prendiamo il titolo del Fatto Quotidiano, Renzi il palo della banda di Salvini, o quello del Manifesto, muto soccorso. Anche questo non è male. Lo si prende come il fatto che Renzi, dopo aver votato la fiducia a Bonafede, però ha ripreso la libertà d'azione e si comporta, lui e il suo gruppo si comportano da corsari. I giornali di destra mettono tutto in relazione allo scoop della verità, quello in cui due giudici importanti, due magistrati importanti sono stati pizzicati a dire: beh, ma Salvini è chiaro che è innocente, però noi dobbiamo andare avanti lo stesso per fargli la guerra. E infatti la verità titola, lo scoop della verità, stoppa il processo Burletta a Salvini, Libero pubblica un'intervista di Salvini, Salvini mezzo salvato, criminale del governo, notare il mezzo salvato, e il giornale fa un gioco di parole, salvano Salvini per salvare la faccia. Lo scandalo di intercettazioni fa vergognare perfino la politica, però la vicenda è ancora tutta da scrivere. Nel frattempo sui giornali, Paolo, non so se volevi aggiungere qualcosa su questo, troviamo no, Milano, invece... perché è stata vista come uno scandalo il fatto che a Milano una renziana, Patrizia Baffi, è stata nominata con i voti del centrodestra presidente della commissione che dovrà indagare su quello che è accaduto in Lombardia. E è un'anomalia, lo dico, è una grave anomalia, nel senso che se si assegnano queste commissioni, la presenza di queste commissioni all'opposizione, non si può fare il giochetto che fu fatto già una volta, mi ricordo nel 2008, quando Riccardo Villari del PD fu nominato capo della commissione di vigilanza della RAI. Sono giochetti di breve respiro, prevedo, un po' perché gliel'hanno già detto i capi corrente, ma prevedo che questa Patrizia Baffi dovrà dimettersi e il suo sogno di gloria durerà poco. Stamattina gli ascoltatori che hanno seguito, abbiamo avuto ospite Davide Farone di Italia Viva, che ci ha detto: abbiamo chiesto alla Baffi di non accettare l'incarico. Veniamo poi alla parte appunto delle intercettazioni, che tiene dentro, insomma, che poi sempre tutta da ridere la parte delle intercettazioni. Perché questo Palamara, Palamara che già Cossiga chiamò Tonno, ti ricordi? Se lo ricorda bene il nostro Alessandro Milan, perché lo fece da noi. Comunque, insomma, prego. Aveva amici dappertutto, procurava, cercava biglietti per le partite di calcio. Non faceva che parlare con attori. Ma sì, con poi ci entrano tutti, no? È pazzesco, perché ci entrano tutti. Antonello Venditti, col quale giocava a Burraco, e poi a cena andavano insieme allo stadio. Beppe Giannini, ve lo ricordate, l'ex capitano della Roma, che chiama Palamara per chiedergli un aiuto per avere un incarico. Insomma, c'è veramente di tutto. E poi i complimenti agli allenatori della Roma, tutti quanti, quelli cacciati a pedate e quelli che sono arrivati a sostituirli, tutti pieni di complimenti. Tutti i giornali, se potete divertirvi più, anche Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, ce n'è anche per i giornalisti, mi raccomando. Palamara non si faceva mancare nulla, Palamara e tutti i suoi, perché ci sono, i giornali pubblicano organigrammi dei suoi rapporti con altri magistrati finiti nei guai, sono già parecchi, poi i politici, insomma, basta. Allora, Paolo, a proposito di sovranisti e di teorici del sovranismo, ti vorrei portare a Steve Bannon, l'ideologo della destra, no? Che un sovranista che ha vinto oggi, due sovranisti hanno vinto, Salvini e Bannon, brevemente, e Steve Bannon, che ha ottenuto, insomma, ha perso il ministro della cultura Franceschini, la storica Certosa resta ai seguaci di Steve Bannon. Sto leggendo un articolo di Paola Rolletta su Il Manifesto. La Certosa di Trisulti, vicino a Frosinone, che lui aveva preso in affitto nel 2018, gli era stata contestata, ha fatto causa e il TAR di Latina ha dato torto al Ministero dei Beni Culturali. L'annullamento di quel contratto è illegittimo, quindi Steve Bannon rimarrà là. Se, rimarrà. Se comprate il manifesto e leggete la pagina 16, c'è anche una foto di questa certosa che è davvero uno dei posti più belli del mondo, insomma uno dei posti. Quindi Steve Bannon, a parte aver avuto questa soddisfazione di poter rientrare trionfalmente nella sua certosa, occuperà un edificio pazzesco. Sì, il ministero gliel'aveva assegnata nel 2018, un ministero che allora era gestito da qualcun altro, naturalmente c'erano state marce, proteste, poi arriva al ministero Franceschini e appunto prova a toglierglielo, ma il TAR di Latina ha respinto questo ricorso. A proposito di associazioni religiose, perché questa l'associazione presente là, che ha Bannon tra gli sponsor, è un'associazione fondamentalista cattolica. Non è fondamentalista cattolica, mai sulle pagine dei giornali di oggi, un'altra associazione cattolica importante, un'associazione monastica importante, Paolo. L'associazione, la comunità di Bose, Enzo Bianchi, che è stato allontanato dal Papa e dovrà lasciare la comunità di Bose. Cosa era accaduto? Era accaduto che Enzo Bianchi, c'era stato un avvicendamento un anno fa, ma da quello che si capisce dai giornali, per questa decisione che è durissima del Vaticano, Enzo Bianchi pretendeva di continuare a comandare, ad avere i suoi, comandare è un verbo forse eccessivo, ma insomma di esercitare l'influenza, lui l'aveva fondata. Sì. E voleva, e allora il Vaticano ha mandato un'ispezione come sì. Ministero di Grazia e Giustizia, un'ispezione, anche se chiamata con nomi altisonanti per la fede, se non mi ricordo, la visita apostolica, e così, e questi ispettori hanno detto alla fine di questa visita apostolica che le pretese di Bianchi erano eccessive, e quindi di fatto l'hanno allontanato dalla sua stessa, dalla comunità che lui stesso aveva fondato. Sì, bisogna ricordare che la comunità di Bose era nata nel 65 addirittura a conclusione del Concilio Vaticano II, cioè una cosa che ha una lunghissima storia, più di 50 anni, 55 anni per l'esattezza, e che Enzo Bianchi è un monumento. Questo conflitto secondo me ha dell'altro, perché è impossibile un gesto così clamoroso solo perché un anziano signore che ha 77 anni pretende di esercitare un'influenza, insomma sono come alcuni direttori storici di giornali, fondatori che una volta che rimangono là, che rimangono per dare, per esercitare sì. un'influenza, nessuno si sogna mai di sbatterli fuori come accade oggi a Enzo Bianco. Paolo, scusa, Enzo Bianchi era il sindaco di Catania. Paolo, abbiamo veramente 30 secondi. Beh, non posso non chiudere sulle sardine, su questa fine ingloriosa delle sardine. Semplicemente ha annunciato che si prendono l'ennesima volta, che lo dicono, una pausa di riflessione. Il Covid non ha trovato la vita delle sardine, ma sai, la cosa che mi ha fatto più, ovviamente i giornali adesso non ti dico, sardine ammutolite, vanno a nascondersi, leggo da Libero, cioè tutti festeggiano e sghignazzano, ma il giornale che dedica più spazio alle sardine, a questo loro ridimensionamento, è il Fatto Quotidiano, curioso, perché che con delle interviste, con insomma con due pagine molto dense, anzi per la cronaca la vicenda è stata rivelata ieri da Emanuele Lauria su Repubblica, ma oggi, ripeto, ci sguazzano i giornali di destra, ma il pennino al veleno lo intinge il Fatto Quotidiano. Vorrà dire qualcosa? Dicono chissà, che andavano a cena con Zingaretti, chissà, che vogliono diventare una corrente del PD, poi ritornano a raccontare che sono fatti la foto con Benetton. E vabbè. Ma sento Paolo, che ridi sotto i baffi, mi dai i nervi. lo so che tu li ami. Va bene. Ci mancheranno. Ci mancheranno. Ma tanto, però, Paolo, quando annunciano la pausa di riflessione, poi tornano. Eh sì, sempre. Ci sentiamo venerdì, grazie Paolo Mieli, GR24, ci ritroviamo tra un attimo con Maria Latella e con i nostri ospiti.